Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Andate a vedere. Attaccare! La sentenza del Tribunale di Napoli ci mette in condizione di cominciare pienamente il nostro lavoro amministrativo. È un atto che consente agli elettori di vedere rispettato il proprio diritto di scegliere da chi essere governati. Far me non può, fadollo fuoco goce massi fuglie. Vedrete che nei prossimi mesi arriverà all'Italia intera un'immagine di un'altra Campania, completamente diversa dal senso comune che è circolato su questa regione. Nei prossimi mesi arriverà all'Italia l'immagine di una classe dirigente fatta di dignità istituzionale, di concretezza amministrativa e, come dico io, di rigore spartano. Questa è Sparta! Tutto a posto, è tutto a posto. S'aiuta in essere, s'aiuta alla capa già. E chiusa, poi è tornata, poi è venuta. È arrivata la sospensiva della sospensione. E quindi ora De Luca può insediarsi nella regione Campania. Può convocare il consiglio regionale, può nominare la giunta. Non è detto che sia finita così, perché poi il 17 luglio credo bisognerà decidere se la sospensiva della sospensione regge una sospensiva in tribunale. Se vi è già venuto il mal di testa alle 6:32 minuti, sappiate che è tutto normale, sono loro che sono strani, non voi, non voi. Voi pensate al vostro venerdì, perché è venerdì, il giorno in cui si chiude la 113esima settimana decisiva, decisiva per l'abolizione delle province, ma non ce l'abbiamo fatta. Forse la 114esima potrebbe essere quella decisiva, attendiamo la prossima settimana. Intanto De Luca è lì, Forza Italia, che dice: ma allora la Severino così vale per Berlusconi e basta. A proposito di Berlusconi, attaccare! Altro che attaccare. Arrivano tempi grami, si riparte con il circo, è ufficiale, è il 3 luglio e riparte il circo. Iris Berardi, beccato il diario in cui si annotava tutti gli appunti sulle orge ad Arcore. Un'altra che parla delle attenzioni tattili ai genitali di Silvio Berlusconi durante le famose cene eleganti. Riparte il circo. Ora vi faccio una domanda: secondo voi nei prossimi 10 giorni il diario di Iris Berardi, in cui parlava di orge, sesso, droga e quant'altro ad Arcore, uscirà o no su qualche giornale a puntate? Staremo a vedere. Intanto 24 mattino conclude la settimana alle 6:33 minuti. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro Carmelo Lauricella, oggi così chiamato improvvisamente in regia. Evviva. E che dire, intanto voglio salutare subito Alessandro Giglioli e il suo Piovono Rane. Eccolo qua, uno dei giornali, l'Espresso, più accreditato per pubblicare il memoriale di Espresso e antipatico. stamattina, sei depresso e antipatico. No, come depresso? Come litighiamo, hai cominciato a trasmettere con un tono depresso. No, no, come no, senti qua. Tu, è venerdì, è venerdì. Senti qua il buon Pavarotti che canta. Allora, insieme a Alessandro Giglioli, il suo Piovono Rane, il suo Espresso, voglio salutare un graditissimo ritorno, Chicco Testa, eccolo qua, Chicco, come stai? Buongiorno, bene, bene. È smaltita la rabbia per la Champions League? Beh, non è rabbia, siamo felicissimi di essere arrivati a toccarci quella bellissima finale. Felicissimi di essere arrivati due, va bene, va bene, va bene. Anch'io sono felicissimo. Arrivato, sono arrivati due. Che siete arrivati in finale, è stata una bellissima finale. Allora siamo qui, può aprire il Parlamento? Può aprire il Parlamento? Questa vicenda di De Luca, oh. Quindi se mai ci vediamo più tardi. Adesso non facciamo gli avvocati, che nessuno qua ne sa niente, eh? Non ne sanno neanche al tribunale probabilmente. No? Chicco, tu ne sai qualcosa? Quello che ho letto sui giornali, ovviamente. Ah, sì, vabbè, certo. Ma guarda, non lo so, cioè dal punto di vista del funzionamento della democrazia, preferisco che sia andata così. Quello è stato eletto, adesso faccia il suo lavoro. E poi vedremo. Sai, De Luca è un personaggio molto discusso. Io sono molto curioso di vederlo. Questo sì. All'opera, perché è un personaggio, diciamo, certamente con molti difetti, ma fuori dalle righe, insomma, no? Potrebbe, eh? sì, potrebbe. Beh, vediamo. Insomma, a Salerno pare che abbia fatto. A Salerno dicono che abbia fatto bene. Però, insomma, c'è qualcuno in Forza Italia che può essere un pochino arrabbiato. Anche se Repubblica fa oggi notare che Berlusconi, non essendo amministratore e avendo una sentenza definitiva e non in primo grado, capisce bene che la situazione per lui è diversa. Però è un po' arrabbiato, come dire. A dire vabbè, ma vale tutto solo per me? Un po' di ragione ce l'ha. Sì. Sì. Capito, caro Giglioli? Gli hanno fatto la prima vera legge ad personam a Berlusconi. Beh, l'ha votata anche il suo partito, sì, perché sì, l'ha data la mazzata sui maroni. Il problema non è che non la capiamo noi. Ecco subito che torna lì ai genitali di Berlusconi. Vedi. Vedi. Poveretto, ma dai, ho letto stamattina su Repubblica una telefonata che gli hanno registrato. Con queste ragazze che lo minacciavano, gli urlavano, lo maltrattavano, e lui che dice ma no, sistemiamo tutto. Lui che dice a un certo punto ma no, ho straccato un assegno da 160.000 euro per i mobili di casa. Ma chi è che compra con 160.000 euro i mobili di casa? E quell'altra che diceva non è per casa mia, ma insomma, che poveretto, ormai... comunque il problema sulla Severino non è che non la capiamo noi, il problema è che mi sa che non l'ha capita quelle che l'hanno scritta. Perché sì, nessuno. Io ho provato l'altro giorno a spiegare a un collega straniero la differenza tra incantabile e ineleggibile, sì. E dopo circa 20 secondi aveva gli occhi strabuzzati. Però anche tu cercava di capire perché uno può essere candidabile ma non eleggibile. Perché devi capire, Chicco, che Giglioli ha queste... Già la scorsa volta avevi fatto una roba che solo tu in Italia, dice, una volta mi ha detto mi sono letto tutti degli atti e lui si butta così, magari ti sei letto anche il testo della legge Severino, Giulio. No, io mi sono letto tutta l'enciclica. Tu l'enciclica, va bene. L'enciclica anch'io, quella era bella, dai, quella era anche facile. Ho dovuto fare un'intervista a Rifkin sull'enciclica, allora me la sono dovuta leggere tutta per lavoro. Cioè, Milan, queste robe le faccio per lavoro. So, tu alle 8:30 hai finito, te ne vai a casa. Ma che intanto alle nove, poi non ho finito. Vabbè, insomma, ti sei meritato un paio di insulti che non ti dirò. e comunque va bene così. Che hai trovato nell'enciclica, Chicco? Vabbè. A me non è piaciuta, ma insomma il discorso è lungo. Ho trovato un miscuglio di luoghi comuni, onestamente. Io non sono cattolico, ma ho avuto un'educazione cattolica. Il Papa quando parla, come si dice, ex cattedra. Sì. Ora che, per esempio, per fare un piccolo esempio, in un'enciclica si trovino degli insulti ai condizionatori d'aria, no? Individuati come uno degli elementi, diciamo, del male del mondo, onestamente mi sembrano cadute di tono molto molto discutibile. E vabbè, adesso gliela facciamo riscrivere adesso, questi paio di passi glieli facciamo rivedere. Però la trovavo un po' uno zibaldone di molti molti luoghi comuni, non tocca a me dirlo perché non cioè, con pochissimo rigore teologico, diciamo. E vabbè, non tocca a lui dirlo, però ha criticato il Papa, questo è il dato di fatto. Il Papa si può criticare. No, certo. Il Papa si può criticare, sarebbe interessante un confronto sul contenuto, questo sì. Col Papa? Non so se vuoi lo invitiamo. Tra Ripine e Testa, cioè tra gli iperfitti. L'altro giorno, se a qualcuno interessa, così nella nuova unità ho pubblicato un articolino e dall'altra parte c'è un'altra persona che invece era un sì e un no. Come si fa sui giornali, quello per il sì e quello per il no. Giustamente. Mi dicono, si prega di non associare canzoni napoletane al Salernitano De Luca. Questo sarà un napoletano che ci scrive abbastanza arrabbiato. Mentre se avete mal di testa, notizie, stasera c'è la Notte Rosa a Rimini. Tu vai, Giglioli? No, io stasera sono a Parma per una roba. Allora sei lì a due passi, insomma. Te la fai facile. Ti puoi allungare da Roma. Una roba diversa, comunque vediamo. Comunque giriamo. Com'è la Notte Rosa? La Notte Rosa a Roma. La Notte Rosa? Non so, è la Notte Rosa, dai. Quelle notti. C'è qualcosa che riguardi le signore, diciamo. Ma no, sarà semplicemente una notte con tutto aperto fino alle 6 del mattino. È giusto, divertiamoci. Non è. Vabbè, questa è la tradizione. Fare il pauperista che poi testa ti fa un culo così. La tradizione a Rimini. Mi chiedono anche di Forchielli, sarà con noi martedì. Martedì ci sarà Alberto Forchielli, così commenteremo anche quello che succede in Grecia. A proposito della Grecia. Ah, qui so già che battaglierete. Varoufakis dice: se vince il sì al referendum, me ne vado. E piuttosto che un nuovo accordo, mi taglio un braccio. Lui è uno così. È andato tra l'altro a Bloomberg a parlare, nella tana del lupo, in mezzo. Allora, intanto previsione, Chicco Testa, come finirà? Vince? Con un accordo. Sì, no, ma chi vince il referendum intanto? Vincono questo è difficile da sapere, però come i greci hanno un forte sentimento europeista, un po' come noi italiani un po' di anni fa, quando sentendoci un po', come dire, non i più amati in Europa, allora volevamo restare molto attaccati all'Europa, no? Lo stesso sentimento c'è un po' in Grecia, no? Però sì, naturalmente la questione è molto complessa, quindi è difficile fare previsioni. Io, se dovessi scommettere qualche euro, scommetterei sì. Vince il sì, qualche euro. E allora, qualche dracma. No, vabbè, in questo caso qualche euro, perché se vince il sì rimane l'euro. La cosa divertente è questa carovana di persone. Sì. Chi è che non va ad Atene? In gita fuori porta. Vendola va ad Atene, i Grillini vanno ad Atene, la Meloni forse va ad Atene, Salvini. Brunetta va ad Atene. Brunetta con Tsipras. Invece. A questo punto, Testa deve andare a Francoforte. Per par condicio. Chi è che va lì davanti alla BCE a dire no, tutti a Francoforte, non ne vedo. Rimango a casa mia, guarda. Sì, anche Salvini rimane a casa sua, ma sta con il cuore in piazza Sintagma con le persone. E Giglioli invece? Giglioli, la previsione, vuoi sapere se vado da... No, beh, entrambe, dai. Allora, la previsione, temo che vincano i sì, che alla fine non per spirito europeista assolutamente, ma perché se la... Per paura. È un referendum, sì, per paura delle Ricatto, cose allora. Ricatto, l'ha fatto Tsipras il referendum. Ha fatto una sciocchezza, secondo me, dal punto di vista tattico. Quello che ha totalmente sbagliato il governo greco in questi mesi è stata tutta l'agire politico, l'agire proprio quello tattico, strategico, quello della politician. Sì. E questo referendum, secondo me, è un azzardo che perde, perché la gente ha paura. Credo che la gente abbia in maggioranza paura di questo ignoto, anche perché comunque la grandissima maggioranza dei media greci è favorevole al sì, sta facendo una campagna forsennata sì. per il sì, spaventando. E si sta, ma che succede paura. Poi? Cade il Tsipras, anche cade per, il governo, Varoufakis se ne va. Gente che non è, per quello che la conosco io, non ha grande abilità politica come si è visto in questi mesi, ma ha una certa coerenza personale, quindi se ne andranno. Lo so, noi siamo poco abituati a gente che se ne va. Perché, no, sì, effettivamente, però, questo è vero, questo è vero. No, il governo credo che cade in ogni... Che il Presidente della Repubblica ha detto che se dovesse vincere il no, comunque lui non è un presidente per la Grecia fuori dall'euro, e quindi comunque anche se vincesse no ci sarebbe una crisi politica. Beh, questo però, scusami, piuttosto... dovrebbe valere se fosse automatico e poi il passaggio a una valuta diversa, mentre se vincesse quello che si capisce al momento e che vince, se no si siedono un'altra volta al tavolo delle trattative. A meno questo è il... Comunque, però quello è importante, Chicco Testa dice che alla fine ci sarà un accordo, cioè sì o no, alla fine è tutta una manfrina, ma poi... Manfrina, nel senso, è tutto un testa a testa, ma poi dopo... Diciamo che l'accordo, se vince il no, è probabilmente i greci, il governo greco ha un rapporto di forza migliore. Sì, è un rapporto di forza migliore, scusate la banalità. Ma allora, scusa, Chicco, che serve il referendum? Cioè, hanno trattato per 4 mesi inutilmente per fare un referendum e poi trattare ancora e fare un accordo. No, il referendum serve a Tsipras per lui spera di avere da questo referendum un appoggio politico e dire: vedete, la democrazia greca mi dice che quell'accordo non andava bene e che quindi io ho ragione a rivendicare per la Grecia condizioni migliori, capito? Serve a questo. Intanto un altro ascoltatore dice: però infatti forse ha ragione Giglioli, forse è un azzardo, può darsi di sì, può darsi di no. Questo lo scopriremo. Intanto ancora ci scrivono De Luca e Salernitano, non napoletano, non confondiamo la lana con la seta. Niente, abbiamo pestato un bubone con questi campanilismi. Sì. È come aver dato a Monza quelli di Lecco li guarda mai. No, certo, è come aver dato a un pisano del Livornese. Vabbè, Chicco, dici. No, io conosco un po' Salerno, ho fatto vacanze tanti anni fa, ripetutamente. C'è un posto delizioso nel centro storico, si chiama Vicolo della Neve, mi pare. Ho capito, che dobbiamo farci noi? Dove si mangiano dei fritti e delle cose meravigliose. Vicolo della Neve, abbiamo fatto un po' di pubblicità. No, ma chi è lo chef? Possiamo... No, non lo chef, uno chef da Marione. La signora, diciamo. Una signora. La signora o il signore, quello che... Vicolo della Neve? Sì. Lo facciamo tutta gratis e non prendiamo pubblicità, non possiamo. Giglioli, vuoi anche tu? Puoi dire anche a me la pizzeria qua sotto, così mi fa lo sconto. No, non lo so. No, io non ho interessi a Salerno. Non abbiamo interesse a Salerno, vabbè, è incredibile. Chicco Testa non ha un interesse a Salerno. Abbiamo trovato una città. E anche una centrale nucleare, niente. Niente. Neanche una quota dell'1% del vicolo della neve. Andiamo a sentire il traffico e poi entriamo, L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. 24 mattino. Tsipras è un codardo, costringe poverino il popolo greco a votare. Che voti sì o no, lui ne esce bello e pulito, senza colpe. Mi spieghi cosa vuol dire i greci vanno in pensione a 55 anni? Tutto scandalizzato. Ma se come me entro nel mondo del lavoro a 14 anni e mezzo, i miei anni di lavoro a 55 anni saranno 40 lo stesso o no? Ma svegliati un po', fatti ricoverare, va. Dico, adesso basta con gli insulti. Adesso dico io, Arino Milan è bello, è bravo e ha gli occhi azzurri. Hanno fermato per la seconda volta mio cognato per un controllo di documenti sul traghetto per la Sardegna. Alla sua domanda, scusate, ma lo faccio da delinquente? La risposta è stata, no, lei ha i baffi. È con questo criterio che fanno controlli qui da noi e stiamo freschi. Milan, sono Tsipras. Se vuoi presto potrò venire alla prima trattativa con Squinzi per tuo rinnovo contrattuale. Perché no? Perché no? Che ma devo fare? Ha fatto Tsipras con l'accento serbo-croato? Ma non lo so, ma sai come fa l'accento greco effettivamente? Non lo so, però questo era chiaramente slavo. Non è facile, va bene, ringrazio la signora. Nel frattempo mi sono letto la telefonata anch'io, quella che ci stava Giglioli, il povero. Povero Berlusconi. Povero Berlusconi. Povero Berlusconi. C'è Iris Berardi, anch'io minorenne alle serate. Gli hanno trovato questo diario con il capitolo Bunga Bunga Hot Party. E però con, nella quale descrive alcune scene abbastanza esplicite. I giornali ce le faranno sapere al giro di 3 giorni. Ma tu vorresti fare qualche anticipazione, lo sento, no, sulla punta della lingua. No, no, però lei stai pensando, lo faccio o non lo faccio? Lei minimizza, dice: ma assurdo, era il canovaccio di un libro di avventure che stavo per scrivere. Beh, vabbè, ma questa è la migliore, Giglioli. Era un canovaccio. Cioè, è tutta fiction. Beh, va bene, è lo stesso, siamo comunque a luglio, poi c'è agosto e quindi. Il tormentone dell'estate, il sarà tormentore dell'estate. Il diario di Iris Berardi. Ma non credo, io penso che siamo un po' tutti stufati. Ma sì, dai, abbastanza. Però ci siamo stufati noi, che siamo anche sparati tutti i 2 giorni, esatto, precedenti. Cioè, si è stufato però, perfino Giglioli all'Espresso, perfino sì, Repubblica, no, secondo me si sono annoiati di pubblicare. Sì, siamo stufati, secondo me tutto il palazzo si è un po' stufato. Però, resiste un po' il Fatto Quotidiano, forse, cioè, testa. Forse sì. Però poi dopo, quando vai a vedere su internet i titoli più letti, no, perché tu fai tanto il moralista, sì, come ma che moralista io? No, tu fai tanto il moralista, però poi sono i titoli più letti, cioè i giornali. Ma certo, ma è ovvio, ma è ovvio. Ma se pubblicheranno il diario di Iris Berardi, lì alla Zanzara, no, ma questo non c'è dubbio. Lì alla Zanzara, qui siamo a 24 no, mattino. Vabbè, hai capito. Ho capito. Che c'ha con la Zanzara? Chi con? No, ti chiedevo, sono tuoi amici quelli della Zanzara? Come no, Cruciani, certo, Parenzo, amicissimi. Amicissimi. Ah sì, è vero, vi ho visto insieme recentemente a Roma una sera. Appunto, vedi, allora. allora, vi voglio fare sondaggio subito, le Olimpiadi di Roma, in maniera secca, sentite Marino difende ed è positivo per le Olimpiadi, a lui non gliene frega niente se oggi leggerà Repubblica che secondo un sondaggio di Ilvo Diamanti il 73% dei romani non lo eleggerebbero se si andasse a votare oggi. Marino va avanti, ignaro Marino va avanti. Si è parlato di credibilità internazionale, non crede che gli scandali di Mafia Capitale possano minare questa credibilità della città per la candidatura? Il fatto che noi abbiamo scoperchiato tanti pentoloni maleodoranti, abbiamo aperto tanti armadi, lo stiamo facendo con una determinazione mai vista nella nostra città, nella nostra capitale, ci sta ponendo all'attenzione internazionale in maniera molto positiva. Positiva, niente. Chicco, avanti, non succede nulla. Allora, queste Olimpiadi vanno fatte a Roma? A me piacerebbero se ci fossero, da qualche parte bisogna ripartire, non c'è dubbio, no? Un po' come è stato per l'Expo milanese, che poi alla fine mi pare abbia riscosso un certo successo e si sia svolta e si stia svolgendo, diciamo, con successo. C'è un po' di ottimismo, sì, però insomma, diciamo, sì, un po' di ottimismo, esatto. Dopodiché non bisogna dire fregnacce, insomma, cioè Marino non ha scoperchiato niente, purtroppo la struttura amministrativa del Comune di Roma è un disastro, eccetera. Guarda, è nelle piccole cose talvolta. Qui dove abito io c'è una piazza storica di Roma, Piazza San Cosimato, una piazza di Trastevere. Sì. Allora puntatevi, abita vicino a Piazza San Cosimato. No, vabbè. È una piazza che è stata interamente rifatta, mi pare, 7-8 anni fa, sì, una cosa di questo genere. No, e quando ci fu l'inaugurazione c'ero anch'io, ma contenti, insomma, anche se magari c'era qualche critica su come era stata rifatta questa piazza, eccetera. Ieri sera sono passato di lì, c'era una proiezione, un sacco di gente. Insomma, questa piazza è stata lastricata con delle piccole lastre di pietra, non ce n'è più una intera, sono tutte rotte. E dalle piccole cose, dici. No, allora lì bisognerebbe tornare indietro, dire: allora, come è stato fatto l'appalto? Chi era la ditta che l'ha fatto? Chi era il direttore dei lavori? Come mai non sono stati controllati i materiali? Che materiale è stato usato? Perché se succede una cosa così in una piccola, una bella piazza, è una, è anche una, dici, figurarsi piazza, in uno stadio, una che ne so, la piazza. Ma allora come mai succedono queste cose che non succedono per esempio a Milano. No, non lo so, Giglioli che è un milanese trapiantato a Roma, tu che dici, le Olimpiadi sono la nostra salvezza o la nostra condanna? Abbiamo già il Papa che ogni volta che si muove blocca il traffico. Vabbè, adesso due ambasciate per ogni stato straniero. No, sì. Due ambasciate per ogni stato straniero con tutte le macchine che vanno nelle preferenziali. Tutte le macchine dei politici che vanno da tutte le parti. Un casino in e ci mette le Olimpiadi. Ho capito, ma le Olimpiadi che ne so, a Berlino quando le fanno. Visto che Testa parla della sua piazza, io invece sto vicino a Piazza San Giovanni. Cioè, qui c'è un tombino. Sì. C'è un tombino che si è affossato di un 20 centimetri 3 anni fa. Sì. Sono ed è 3 anni lì, che è questo tombino lì. È stato circondato molto compuntamente di un bel nastro adesivo dei vigili urbani. Ed è lì. È circondato dal nastro adesivo dei vigili urbani in modo che la gente non ci cade. Sì. Rotto da 3 anni così. Allora, ma quale cazzo di Olimpiadi vuoi fare? Vabbè, ho capito, però adesso io non lo so. Non c'è un albero che non c'è un giardino che non sia stato, che sia stato sistemato, non c'è un albero che sia stato tagliato dopo un disastro, un disastro. Non si può fare niente. Stiamo scherzando. Vabbè, cominciamo a fare il tombino, poi dopo se hai fatto il tombino ti ragioniamo sulle Olimpiadi. Va bene, dopo il tombino. Prima il tombino e le pietre della piazza di Chicco Testa. Poi le grandi opere. No, ma non per una questione di interessi personali. Oh, qua vi devo salutare, non so, vi faccio sentire Brunetta, visto che l'avete chiamato con grande voce, il Brunetta del giorno. Posso farti una domanda? Sì, come no. Come va la campagna acquisti del Milan? Beh, oggi abbiamo preso Luiz Adriano, questa è la foto sul giornale, non chiedermi sulla Gazzetta, non chiedermi come giochi, potrebbe essere anche un cesso di giocatore, non lo so, però poi abbiamo preso Bacca, non chiedermi come gioca, perché non lo so, però ha fatto dei gol al Siviglia, forse prendiamo Ibrahimovic e noi ripartiamo così. C'è chi è Condobbia e c'è chi è senza Dobbia, ma chi è Condobbia? Ma chi è? Ma tu sei sicuro che sia un bravo giocatore? E poi è il campo che decide. Vabbè, sì, sentite Brunetta che elogia Tsipras. Tsipras in questo momento rappresenta la risposta di libertà al dominio tedesco sull'Europa. Io non lo so, cioè vedere Brunetta che tifa un uomo di sinistra radicale come Tsipras fa capire che c'è qualcosa che davvero non va, fa capire che è venerdì. E allora saluto Chicco Testa, saluto Alessandro Giglioli, vi ringrazio, è venerdì, questa è l'ultima buona notizia e poi lunedì scopriremo qualcosa, tanto noi dopo il giornale radio ci siamo ancora con la rassegna stampa. Attaccare! Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo pronti alla lettura dei giornali. Di cosa parleremo invece oggi? Andremo in onda anche oggi fino alle 9:30, parleremo di sicurezza nelle città. Sapete che a Milano sono state fermate delle donne che facevano furti in metropolitana, classico borseggio, avevano 300 precedenti. Siccome però andavano a fare questi furti con i figli, erano incinte. Niente, libere. Il massimo che gli si è potuto dare è il divieto di andare nelle città con le metropolitane. Ecco, questo per dire. Parleremo a partire da qui di sicurezza nelle nostre città. Avremo ospite l'assessore alla sicurezza di Milano, avremo ospite il sindaco di Firenze, Dario Nardella, avremo ospite un giudice per le indagini preliminari di Udine che già in passato a questi microfoni aveva detto vengono qui spesso dall'estero a delinquere perché abbiamo delle leggi molto lasche per cui non si può far nulla. Poi parleremo di questo reddito di cittadinanza, come lo volete chiamare, la governatrice del Friuli Venezia Giulia Serracchiani dice non chiamatelo così, però il dato di fatto è che in Friuli hanno deciso di dare 500 euro non a tutti. E cercheremo di capire di che cosa si tratta di questo reddito di cittadinanza alla regione Friuli Venezia Giulia dalle 9 alle 9:30. Ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 3 luglio, è venerdì! è venerdì. Carmelo Lauricelli, regia, applaude, a scena aperta. Allora, i titoli, il Sole 24 Ore, il voto costa alla Grecia il 2% del PIL. Questo è il titolo di prima pagina. Perdite per 80 milioni a settimana per gli esportatori greci. Il gelo sull'economia, rischio 3,5 miliardi di euro. Per il Corriere della Sera invece il titolo: altri 60 miliardi per salvare Atene. E il Fondo Monetario che lo dice: servono nuovi aiuti per 3 anni, altri 60 miliardi. Repubblica: Grecia spaccata, Varoufakis, lascio se vincerà il sì. Il titolo invece del Messaggero: Grecia, servono 50 miliardi, già sceso di 10. Mentre La Stampa: il giudice reintegra De Luca in campagna, ora può governare. Questa è il titolo politico. Ingiustizia all'italiana, salvano i politici PD e ammazzano le imprese. Invece il titolo del Giornale: Fincantieri massacrata, 280 controlli in 30 mesi. Questo è il titolo di prima pagina. Invece il Fatto Quotidiano torna, riparte il tormentone, le ragazze incastrano Berlusconi, le testimoni comprate, spuntano i diari e spuntano, ve lo dico già, i nuovi particolari, ovunque sui giornali. L'apertura invece sul Manifesto: vento di Grecale, dedicato alla Grecia, c'è una bandiera della Grecia che sventola, questo è il titolo di prima pagina. Partiamo però, da come al solito, da altre notizie, non quelle che vedremo poi dopo le 8.30, cioè le notizie più importanti di apertura dei giornali. Questa mi ha molto colpito, è il disegno di legge che sta facendo l'iter sulla pubblica amministrazione e riguarda le lauree. È una notizia importante, è passato un emendamento a firma di un deputato del PD, Marco Meloni, per il quale c'è una rivoluzione nei concorsi pubblici in arrivo. Laurea sì, ma conta anche l'ateneo. Cioè non conterà solo il voto di laurea, come scrive Silvia Mastrantonio a pagina 6 del Giorno, ma conterà anche l'università presso la quale il titolo è stato acquisito. Così cambia il range di valutazione degli aspiranti dipendenti pubblici che partecipa nei concorsi. Così cambia in base a un emendamento approvato ieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, che parla di superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l'accesso. E parla anche di possibilità di valutarlo in rapporto ai fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato. In gergo vuol dire che insomma conta anche dove avete preso la laurea per fare il concorso pubblico. È una rivoluzione per gli atenei, anche se il Giorno fa sapere inevitabili sono le graduatorie di merito a questo punto degli atenei, ma non è ancora chiaro a chi debba aspettare il compito di stilare questa classifica. Anche La Stampa si dedica con una pagina, questa pagina 18: concorsi pubblici si cambia, oltre al voto conta l'università, i punteggi avranno valori diversi a seconda dell'ateneo di provenienza. Questo almeno raccontano i giornali. È ovviamente un iter del provvedimento che è ancora in discussione in Parlamento, ma è una novità importante, mi sembra, da far notare, e giustamente i giornali la mettono in evidenza. Allora, ieri dovevamo avere il tesoriere del PD Bonifazi, che ha avuto un impedimento all'ultimo momento. Volevamo chiedergli dei debiti della Vecchia Unità, giornale che è tornato da questa settimana in edicola, e siamo tutti felici. Se vuole, nei prossimi giorni sarà sempre il nostro microfono aperto a sua disposizione per chiarire chi dovrà pagare i debiti della Vecchia Unità, perché Milena Gabanelli ne ha parlato a Report dicendo che alla fine pagheremo noi cittadini. Si parla di 95 milioni. Oggi il Messaggero torna su questo tema a pagina 10. Il titolo è questo: lo Stato dovrà pagare alle banche i debiti della Vecchia Unità. A parte che quando leggo lo Stato in questi casi mi verrebbe da farvi un quiz. Secondo voi chi è lo Stato in questi casi? Carmelo Lauricella, in questo caso tutti, cioè, quindi bravo, noi, bravo, vedi, lo Stato siamo noi in questi casi, quando bisogna accollarsi i debiti. Rosario Di Mito racconta a pagina 10 del Messaggero: lo Stato deve restituire alle banche il vecchio debito dell'Unità, il quotidiano fondato da Gramsci e tornato da pochi giorni in edicola. Secondo quanto risulta al Messaggero, dal 22 giugno scorso sarebbe divenuto esecutivo il al decreto ingiuntivo presentato a maggio 2004 dalle banche, relativa a un'esposizione di 176 milioni, ecco che la cifra sembra lievitare, 176 milioni, una cifra che si è accollato l'ex partito dei DS per conto del giornale, ma sul quale c'è una garanzia primaria e solidale dello Stato in forza di una legge del 1989, cioè se i partiti non possono pagare i debiti, se li accolla la presidenza del Consiglio, e in questo caso è lo Stato, e in questo caso è... noi. Carmelo mi porge già il portafogli. Se avete un paio di euro a testa per pagare i debiti della vecchia unità, cari ascoltatori, mettetevi la mano sulla coscienza e l'altra nel portafogli, perché presto bisognerà sborsare qualche eurino, mi sa che andrà a finire così. Ho una notizia di cronaca che ha molto colpito e che conquista una pagina di giornale un po' ovunque, è questa. Ieri hanno ricoverato a Firenze un bambino di 11 mesi perché soffriva di malnutrizione. Ricoverato per questo, è partita una polemica quando si è scoperto che è figlio di vegani. Due genitori vegani che portavano avanti uno svezzamento anch'esso vegano. E quindi, come racconta Marco Gasperetti a pagina 17 del Corriere della Sera, si è trovato questo bambino con carenza di vitamine, soprattutto la vitamina B12. È arrivato a un certo punto il primo omogenizzato alla trota dato dall'ospedale, che Filippo, questo piccolo bambino, ha divorato con un sorriso. I genitori, guardandolo, si sono quasi commossi, dicono: avremo rimorsi ora, ma abbiamo capito. In realtà hanno capito, ma sono anche indagati, sono finiti indagati per maltrattamenti, perché questo bambino è stato trasportato in condizioni gravi, non riusciva né a gattonare, neppure a stare seduto, dice il docente di pediatria all'Università di Pisa, Giovanni Federico, che lo ha preso in cura. Il motivo era una dieta non appropriata che avevano deciso per lui i genitori, una coppia di vegani integralisti, così vengono definiti sul Corriere, convinti che il piccolo potesse fare a meno di molti alimenti. Avevano cercato di svezzarlo con una dieta vegana, scelta però senza i consigli di un pediatra, e così il piccolo l'aveva rifiutato. Allora la madre aveva continuato ad allattarlo al seno, ma il problema, spiegano i medici, che anche la donna aveva carenze nutrizionali per un'errata scelta degli alimenti vegani, e quindi anche lei aveva una forte carenza di vitamina B12. Per carità, poi sento già le polemiche che mi entrano nelle orecchie, anche lo stesso Corriere della Sera racconta la scelta vegana è una scelta di per sé assolutamente non dannosa se ben bilanciata. Qui evidentemente avevano combinato qualche pasticcio e avevano esagerato. Dieta vegana a un anno, bimbo in ospedale, IPM contro i genitori. Anche Repubblica dedica una pagina a questo tema. Il malore del bambino, poi la prognosi riservata, addirittura denutrizione. Ovviamente gli animalisti dicono: è sbagliato ora criminalizzare la scelta, ma infatti la scelta non si criminalizza, e evidentemente qui avevano, la situazione era un po' uscita dal controllo, eh? Questo è il dato di fatto. Va bene, vi segnalo un'intervista a Lucia Borsellino, assessora alla sanità dimessa dalla regione Sicilia. Emanuele Lauria la intervista, si è dimessa da assessore alla sanità in Sicilia. Lucia Borsellino, colei che è la figlia del magistrato ucciso il 19 luglio, Paolo Borsellino. Ora, se permette, torno a essere la figlia di... Allora, Emanuele Lauria fa questa intervista su Repubblica, pagina 21. È interessante tutto l'aspetto politico, perché l'imbarazzo dopo che è stato arrestato il cosiddetto medico di Crocetta, molto amico di Crocetta. Lucia Borsellino fa tutte le sue considerazioni, al netto che alla fine dice: questa è stata la mia prima e ultima esperienza politica. Ma forse la parte più interessante dell'intervista, che dovrebbe fare meditare, è quella conclusiva. Si avvicina al 19 luglio, la ricorrenza dell'uccisione e della strage di Via D'Amelio del padre e della scorta, e sentite cosa dice Lucia Borsellino. Oggi torno a essere la figlia di Paolo e in nome dei suoi semplici insegnamenti chiedo a tutti di non invitarmi il 19 luglio alla commemorazione di Via D'Amelio. Insomma, chiede Lauria, questa antimafia non le piace più. non capisco l'antimafia come categoria, come sovrastruttura sociale, risponde Lucia Borsellino. Sembra quasi un modo per cristallizzare la funzione di alcune persone, magari per costruire carriere. La legalità per me non è facciata, è una precondizione di qualsiasi attività. Ah, che parole sante, oserei dire, soprattutto quando dice che con l'antimafia si costruiscono carriere. Parole sante, a mio modo di vedere, di Lucia Borsellino a Repubblica. Vabbè, ma eccolo qui l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. È su Libero. Franco Bechis racconta del vero scandalo in Calabria, gli stipendi. È l'analisi della richiesta d'arresto di un senatore del nuovo centrodestra per spese pazze quando era consigliere in Regione Calabria. Si tratta dell'attuale senatore Giovanni Emanuele Bilardi. E tutto nacque da un televisore, un Grundig 32 pollici comprato a MediaWorld nel 2010 coi fondi del consiglio regionale, coi magistrati che dicono: ma perché l'ha comprato? L'ho comprato per il gruppo, quindi è nella sede del gruppo, sì. Quindi se noi andiamo troviamo questo Grundig 32 pollici nella sede del gruppo. E Bilardi ai magistrati: certo, è un televisore che abbiamo acquistato per il gruppo. Al che, cosa curiosa, i magistrati vanno e lì il televisore è appoggiato lì, ma senza neanche il cavo dell'antenna e il telecomando. Insomma, la TV c'era, ma nessuno poteva vederlo. Al che vanno a vedere le telecamere e si vede nella notte che un tale Carmelo Trapani, dice Libero, uno spicciafaccende personale del senatore, porta il televisore di notte di nascosto. Evidentemente non era proprio nella sede del gruppo. Probabilmente quel piccolo Grundig è uno dei motivi più seri per arrivare a chiedere l'arresto del senatore NCD. Ce ne sono altri simili, come fatture postdatate, documenti contabili contraffatti, improvvisa scomparsa dei libri contabili di un bed and breakfast. Ma ci sono, racconta Bechis, le spese dei fondi della regione, pranzi, hotel, una Montblanc da 1100 euro, regali da lista di nozze, pagamento di spettacoli di danza cubana da 20.000 euro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Angela Merkel dell'informazione. Non male, non male. Questa, dovremmo sapere com'è la vera voce della Merkel in italiano per un'imitazione corretta. Comunque 0246524492 è il numero di telefono per la segreteria telefonica. Abbiamo guardato Carmelo Lauricella e Lorenzo Espoli, sono stato 4 minuti in pubblicità un po' in fissa, cioè, mi guardavano così con gli occhi pallati. No, perché voglio fare semplicemente i complimenti al Comune di Venezia per la scelta della neo presidente del Consiglio Comunale. Si tratta di Ermelinda Damiano, detta Linda, 28 anni, Libero oggi ne pubblica qualche foto a pagina 12. Comunque la cercate su Google, Ermelinda Damiano, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Insomma, complimenti. Allora, dico solo complimenti. De Luca, la vicenda De Luca. È arrivata la sospensiva della sospensione e non è finita, ma arrivando la sospensiva della sospensione, ecco che De Luca si può insediare. Non vi voglio far venire il mal di testa, ma semplicemente è che Renzi con decreto aveva sospeso De Luca in virtù della legge Severino e della condanna in primo grado del neo governatore della Campania. Ora il giudice Cioffi del tribunale di Napoli ha sospeso la sospensione e quindi De Luca ritorna in carica. Vincenzo De Luca, come racconta Vera Viola a pagina 18 del Sole 24 Ore, può governare la Campania. La prima sezione civile del Tribunale di Napoli, in seduta monocratica, ha accolto il ricorso della Presidente della Regione contro la sospensione proposta e presa da il Premier Matteo Renzi. Il ricorso d'urgenza chiedeva la sospensiva del decreto del Presidente del Consiglio che aveva disposto la sospensione dell'ex sindaco di Salerno. Tra l'altro non è finita, perché il 17 luglio ci vorrà un altro tribunale che farà l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del decreto. Il giudice sarà Anna Scognamiglio e quindi il 17 luglio ci potrebbe essere la conferma o la revoca della sospensiva della sospensione. In Italia facciamo sempre le cose molto semplici. Vabbè, Vincenzo De Luca è al settimo cielo. Fa un'intervista all'Unità, intervistato dal direttore Erasmo D'Angelis, a pagina 3, contro di me una guerra. Cambierò la campagna, questo è il titolo. De Luca che dice come mi sento, come uno appena uscito da una guerra termonucleare. Neanche un elefante avrebbe resistito a tutto quello che mi hanno fatto passare. Han provato a infangarmi, ci è voluta tutta la mia forza d'animo per rimanere lucido, ma han fatto male i conti. Io sono una roccia, non mollerò mai fino a quando non avrò risolto i problemi della regione. E ancora sentite come esagera con le iperboli. È scattata una cosa alta e nobile in me, la resistenza. A un certo punto tutto è cambiato. Per me è stato come inerpicarmi sulle montagne per combattere la resistenza come fecero i nostri partigiani. Al che anche il direttore dell'Unità gli dice: dai, non esageri. No, no, ti assicuro che il mio stato d'animo era di quel tipo. Ho subito una tale violenza, con una tale brutalità, sono stato messo alla berlina in maniera ignobile. Io, proprio io, Vincenzo De Luca, con la mia storia da difensore dei più deboli, della legalità nella mia Salerno e non solo, non potevo cedere né subire in silenzio né ritirarmi. Ma la conoscono Salerno? Io mi sono sempre ispirato ai criteri della più rigorosa legalità e legittimità degli atti. Questa consapevolezza granitica mi ha dato la convinzione e la forza per andare avanti. E vabbè, poi parla di quello che farà per la campagna. Comunque questo è il suo momento di gloria. Invece dal centrodestra tuonano. Mara Carfagna, intervistata da Tommaso Labate a pagina 10, è uno spettacolo inquietante. Ora, questa norma evidentemente vale solo per Berlusconi. Qui si sta colpendo le fondamenta dello Stato di diritto. La Severino, per quanto da correggere, è una legge e si applica a tutti o a nessuno. Dice Mara Carfagna: siamo di fronte a uno spettacolo inquietante. È la vittoria del diritto partenopeo su quello italiano, come era stato per De Magistris. In attesa del giudizio di luglio, un giudice napoletano ha optato per la sospensione della sospensione della sospensione. Tre passaggi in uno, con una celerità quantomeno sospetta. Così Mara Carfagna. Repubblica fa notare con Goffredo De Marchis e Carmelo Lo Papa che in realtà gli illegali di Berlusconi gli hanno fatto notare che Berlusconi, non essendo amministratore e avendo una condanna definitiva e non di primo grado, hanno fatto notare: caro Silvio Berlusconi, per lei il pronunciamento di ieri non fa testo. A proposito del giudice che ha deciso, il giudice Cioffi, racconta Il Fatto Quotidiano a pagina 5, ha deciso e va in pensione. Gabriele Cioffi, giudice che negli uffici del 17° piano, prima sezione del Tribunale Civile, ha appena firmato il provvedimento che farà giurisprudenza e che rimette in sella Vincenzo De Luca, poi fa un buffet per salutare tutti, va in pensione. Tra le sue decisioni, tra le decisioni che l'hanno reso famoso in passato, racconta Il Fatto Quotidiano, è colui che assegnò l'assegno di mantenimento di 25.000 euro al mese per la ex moglie del campione di calcio Edinson Cavani. Alla ex moglie Maria Soledad 25.000 euro al mese. È lo stesso giudice che ha firmato l'ultimo provvedimento della carriera, quello che rimette in sella De Luca. Abbiamo citato Berlusconi. Cari ascoltatori, mettetevi l'animo in pace perché riparte il circo, ripartono le intercettazioni, ripartono le pubblicazioni. Sapete che Berlusconi è assolto per la vicenda di prostituzione minorile di Ruby, ora però è sotto processo con l'accusa di avere pagato le testimoni per non parlare. 10 milioni di euro avrebbe dato Berlusconi a queste ragazze, alle ex olgettine, e riparte il circo. Le pubblicazioni. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, oggi a pagina 13 del Corriere della Sera. Eccolo qua il colloquio con alcune ragazze. Vi ho dato 160.000 euro. Ma Barbara Guerra dice: Silvio, sono Barbara, sono stanca di essere presa per il culo. Scusa il termine, ma sono veramente stanca. E Berlusconi: ma ho appena fatto un assegno ieri di 160.000 euro per pagare i mobili della casa. 160.000 euro per i mobili della casa. Vabbè, ci sarebbe 160.000 euro per i mobili della casa. Vabbè, ascolta Silvio, non è casa mia quella, sono in mezzo a una strada dopo 4 anni di merda, ma stiamo scherzando, basta, eh? Ma come scherzando, dice Berlusconi, basta essere presa per il culo, sono stanca, stanca, ogni anno stiamo dentro così, basta. Insomma, vogliono fare pressioni per andare dal ragionier Spinelli, che è colui che sgancia i soldi. E Berlusconi dice, vabbè, adesso sistemo tutto. Ma poi ci sono i diari. Per esempio spunta un diario di tale Iris Berardi. Anche lei faceva parte delle cene eleganti. Ed era minorenne all'epoca, pare. E in un capitolo del suo diario sequestrato c'è il capitolo Bunga Bunga Hot Party, in cui la giovane brasiliana, come racconta Paolo Colonnello sulla Stampa, con un linguaggio molto esplicito descrive una sera del 2007 quando sostituì una tale Valentina in un gruppo di 20 ballerine brasiliane. Ora, chiamata a rispondere di questo capitolo, ha detto, ma va, era il canovaccio di un libro di avventure, amore e sesso che volevo scrivere. Ma poi c'è un'altra testimonianza, dice Repubblica, Melania Tumini, che parla del trenino rappresentato dal passaggio da una cena informale e normale al successivo bunga bunga, e parla di attenzioni tattili verso i genitali di Berlusconi. Vabbè, è ripartito il circo. Vi faccio questa domanda che ho fatto anche prima: secondo voi quanti giorni passeranno prima di leggere il capitolo bunga bunga hot party su tutti i giornali? Mauro Meazza, tutti, proprio tutti, magari il Sole non lo pubblicherà, eh? Buongiorno, buongiorno. Non lo so, forse no, forse penso no. Di no, penso di no, ci terremo a delle vicende, non so, come oggi parliamo per dire dell'approvazione definitiva delle misure per i salvataggi bancari, ecco, magari capisco che per carità è molto meno hot, però potrebbe essere più hot per i correntisti, perché se vai nelle pagine di finanza, so che tu a volte salti le pagine di finanza. A volte lo fai. Ecco, oggi però invece non farlo, perché già in prima pagina, ma poi anche in terza pagina, ti spieghiamo come funziona queste nuove misure dei salvataggi bancari, che sono importanti perché saranno chiamati a rispondere anche, ad esempio, gli azionisti e i correntisti, ma sopra certe soglie. Allora, non creiamo casino, rimando alle tabelle e al contributo di mobili. Casino, tu che hai questi 2 eurini che te li tieni, io non so più dove a questo punto. Ecco, se fossero 200.000 eurini, sappi che già sei sopra la soglia dei 100.000 e quindi potresti essere chiamato a rispondere in caso di un rovescio della banca. Ecco, sappio, poi leggi con attenzione, mi raccomando, anche le pagine finanza e mercati. Poi ti voglio dire, puoi dire tu l'aggettivo, è un fine settimana decisivo, che ti aspetta, ecco, non bisogna avere paura in questi casi. Grazie, diciamolo perché mi pare proprio che sia così. Noi oggi riepiloghiamo, oltre alle vicende naturalmente dei mercati e delle attese per il referendum della Grecia, anche le posizioni della Grecia e dei creditori sulla nostra pagina 2, quindi quanto sono distanti queste posizioni. Vedremo poi chiaramente da lunedì che cosa succederà, quindi le questioni dell'IVA, delle pensioni e quant'altro. Ieri per i mercati appunto è stata un'altra giornata un po' così. E ti voglio anche dire che sta riscaldandosi di nuovo la vicenduccia dei dirigenti delle entrate, dell'agenzia delle entrate. Quelli che hanno firmato i documenti, se siano validi, esatto, o no? Bisogna intervenire, il governo è intervenuto per gettare le basi di un concorso, però i dirigenti, come riferiamo oggi su Norme e Tributi, che tu invece hai letto religiosamente, sì. Come tutte le mattine, e sai che ti fa bene anche per la gola, perché è salutare sempre, sì, che tu legga Norme e Tributi. Ne riferiamo perché appunto c'è una certa preoccupazione, i dirigenti potrebbero anche astenersi da una serie di atti, con ciò però bloccando ad esempio i rimborsi, e questo non sarebbe carino. Oh, e poi ti voglio dire che luglio sarà un mese, dillo tu, decisivo. Ok, per completare la riforma del fisco. Però, caro Mauro, qui mi chiedo, perché io ho detto, Libero ha pubblicato le foto del neo presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, 28 anni, ex reginetta di bellezza. Mi chiedono che ne pensa, ho detto alla gente di googlare per capire di che stiamo parlando, mi chiedono che ne pensi tu di Ermelinda Damiano. Ma quando la vedremo conosce. Alla prova, me lo chiedi perché lei è un'esperta di agenzia delle entrate. No, non lo so, perché è arrivato un messaggio. Non ho ancora googlato, per usare questo termine terribile che hai coniato te stesso, non ho ancora googlato, ma vedrò se di lei si rappresentano, visto che parliamo di riforma fiscale, si rappresentano degli atti importanti, delle uscite importanti in materia. Giusto, giusto. Per questo non so, ad esempio tu sai la questione delle imposte comunali, non è mica uno scherzetto, infatti. Tasi e quant'altro. Vabbè, comunque vedremo, teniamo le dita incrociate per questo fine settimana e ci risentiamo lunedì. E a tutti, come sempre, traffico! Alessandro Mina, il giornalista sexy dell'informazione. Se fossi mio marito, quanti baci ti darei? Vabbè, va bene, cara signora, grazie davvero, sexy non me lo dicevano dal 71, ma grazie davvero. 0246524492 è la nostra segreteria telefonica per le vostre sigle. Allora, parliamo di Grecia, ovviamente, come diceva anche Mauro Meazza, c'è grande attesa, mai si sa, per questo referendum di domenica. Ci sono delle cifre importanti che ho letto sui giornali che vorrei sottoporvi. La prima cifra è quella che dà il Sole 24 Ore in prima pagina: il voto costa alla Grecia il 2% del PIL. Crolla infatti, in attesa del referendum, in questa incertezza, la manifattura greca, che non riesce a importare materie prime a causa delle banche chiuse, e dunque le imprese esportatrici perdono 80 milioni di euro a settimana per la restrizione sui capitali, e dunque il 2% di PIL che così già è volato via per questa fase di grande incertezza. E poi c'è quanto il Fondo Monetario dice serve per salvare la Grecia: altri 60 miliardi per salvare Atene. Questo è il titolo di apertura, per esempio, del Corriere della Sera. Servono per il Fondo Monetario nuovi aiuti per 3 anni, di questi 50 miliardi per la verità, di cui almeno 36 dall'Europa. Sono 50 che servono subito, di cui 36 dall'Europa. Ma perché il Corriere dice che sono 60 il conto finale? Perché il conto sale di altri 10 miliardi per effetto della rottura di fine giugno sul piano di aiuti in corso. E dunque 50 nuovi, ma 10 pregressi, sono 60 miliardi che servono nei prossimi 3 anni. E intanto in Grecia qual è il clima? Varoufakis, ministro delle finanze, va da Bloomberg, come racconta Matteo Pucciarelli a pagina 7 di Repubblica, cioè va nella tana del lupo per eccellenza, per ribadire la sua posizione. O dentro l'accordo tra Grecia e Unione Europea ci sarà anche la ristrutturazione del debito, oppure la sua firma sotto il possibile documento non ci sarà. Piuttosto mi faccio tagliare un braccio, dice Varoufakis, che usa come sempre termini che non contemplano le mezze misure. Varoufakis che dice anche al dubbio: ma se vincono i sì, cioè i sì all'accordo europeo, lei che fa? Non sarò più ministro, ma lavorerò con chi lo sarà, abbinando a tutto ciò un sorriso un po' beffardo. E Repubblica racconta ancora questa figura, detestato dai colleghi di dicasteri di mezza Europa, considerato poco meno di un piantagrane, invidiato da molti compagni di partito che se lo son visti passare davanti, capace di conquistarsi una ribalta mediatica unica e seconda solo a Tsipras. È però amato dalla base del partito Syriza e beniamino delle sinistre radicali continentali. Questo è Yanis Varoufakis, che però dice: mi dimetto se votano sì. Vabbè, non resta che attendere, ormai sono 2 giorni. Bisogna capire come andrà, ci sono tanti articoli per orientarsi in quella che è l'incertezza greca, e poi lo scopriremo tra qualche giorno. Libero invece oggi apre così, con questa notizia: quando il Quirinale sosteneva le fanatiche dell'Islam, riguarda l'arresto della famiglia di jihadisti che è avvenuto ieri. e riguarda una vecchia storia che coinvolge un sindaco della Lega, Cristian Tolettini, sindaco di Drezzo in provincia di Como, che all'epoca aveva fatto un intervento pubblico dicendo non si può andare in giro tutte velate per il paese. Allora, racconta Libero, in questa vicenda di qualche anno fa, Sabrina Varroni, cioè italiana convertita all'Islam, si era rivolta all'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per chiedergli un'autorevole presa di posizione allo scopo di placare la marea che sta per soffocare il senso della tolleranza e della pacifica convivenza tra culture e civiltà diverse, e il Quirinale rispose, riepiloga Libero, dicendo che in Italia c'è libertà di culto, e per dimostrarlo il prefetto di Como fece decadere l'ordinanza del sindaco di Drezzo. Ora, perché racconto tutta questa storia? Perché Libero dice, dietro la spinta per cercare di togliere questa ordinanza c'era e si era distinta all'epoca anche Maria Giulia Sergio, colei che poi convertitasi è diventata Fatima e è andata a vivere in Siria, dove ora combatte a fianco dell'ISIS. Quindi questo lungo racconto per dire quando il Colle, il Quirinale, sosteneva le fanatiche dell'Islam. Così Libero racconta, contro il divieto di un sindaco leghista, il Quirinale appoggiò la battaglia pro burka che aveva tra le promotrici anche la reclutatrice italiana dell'ISIS. È entrato anche Lorenzo Nespoli e quindi Periscope è partito, si può dire così. C'è solo tempo per ricordare che c'è un sondaggio che oggi Repubblica mette a pagina 14, riguarda Ignazio Marino. Secondo questo sondaggio il 73% dei romani oggi non rivoterebbe, cioè di coloro che hanno votato Marino il 73% non lo rivoterebbe. È il caso Roma, anche se giudica lo stesso sindaco Marino incolpevole per tutte le vicende di Mafia Capitale, però ha perso un po' di appeal. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ah, c'è poco tempo, una pagina sul gran caldo, gli effetti del gran caldo in Europa, gente che si bagna e gente che mette i piedi nella vasca. Una pagina sulla Stampa. Oh, fa caldo, d'estate fa caldo, gran notizia, fa caldo. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Eccoci qua, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori, e di che parliamo oggi? Beh, vorrei intanto sgomberare il campo da un dibattito, da un equivoco un po' stucchevole quando si parla di questi temi. Quello che vedrebbe la sicurezza per tutti noi cittadini, soprattutto nelle grandi città, ma non solo, prerogativa di una appartenenza politica, no? Si dice la sicurezza è di destra, di sinistra, la sicurezza è di tutti. È una questione vitale per tutti e non voglio neanche terrorizzare gli ascoltatori. I dati, per esempio, parlano chiaro, dati ufficiali. I reati violenti, come gli omicidi, sono in calo in Italia negli ultimi anni. Aumentano però, e aumentano anche non poco, i furti negli appartamenti e soprattutto quei furti per strada, i borseggi, i piccoli furti, gli scippi. Sarà mica anche perché rubare un portafogli su un mezzo pubblico spesso non porta a nulla dal punto di vista delle conseguenze penali? Sentite qui, succede a Milano, dove 5 donne sono state arrestate nei giorni scorsi, facevano parte di una banda che colpiva soprattutto stranieri. Queste donne avevano tutte tra i 21 e i 29 anni, senza fissa dimora, di origine bosniaca. Insieme avevano accumulato 300 precedenti, 300. Una sola di queste donne ne aveva 63, tra furto, rapina, scippo, evasione. Che è successo? Beh, non si può fare granché. L'unica cosa, l'unica misura che il giudice ha potuto imporre è: non possono avere la dimora in una delle città dove c'è la metropolitana. Perché erano specializzate a rubare lì nella ressa tra i pendolari. Voglio intanto salutare l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. Assessore Granelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Detto che appunto destra, sinistra, la sicurezza vale per tutti, è successo a Milano. Vabbè, si può dire bene, le abbiamo prese almeno. Bene, forse non faranno danni nelle altre grandi città. Però non c'è più un senso di impotenza per un amministratore nel constatare una cosa del genere? Ma intanto noi come amministratori abbiamo appunto realizzato questa unità della polizia locale che lavora in Borghese, proprio nella metropolitana, e questa ha permesso di realizzare circa 150 arresti all'anno di questo tipo, per cui la prima cosa che noi vogliamo fare, stiamo facendo dal 2013, è proprio non lasciare spazio a queste persone, quindi fare continuamente interventi, contrastare, potenziare la videosorveglianza per dare il più possibile prove a giudici e far capire a loro che la città è un'area controllata e dare questo messaggio, restituire le cose rubate ai cittadini, questo sì. Lo facciamo. Questo noi andiamo avanti a farlo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo iniziato a fare a metà del 2013 e lo continueremo a fare. So che però voi avete proposto anche, vorreste proporre come ANCI, come Comuni d'Italia, a un decreto sicurezza urbana, insomma da proporre al ministro Alfano per dare più potere ai sindaci. Che vuol dire più potere ai sindaci? Devo dire, noi ci abbiamo lavorato da più di un anno, siamo a buon punto col ministero, cioè vuol dire intanto dare la possibilità di un maggior accordo tra i sindaci e le forze dell'ordine e le prefetture, perché come si evidenzia, insomma, il tema della sicurezza è competenza del Ministero dell'Interno, del prefetto che sul territorio, poi quello che coordina le forze dell'ordine, la polizia, carabinieri, guardia di finanza, e anche appunto poi il sindaco e gli assessori, insomma le giunte, rappresentano i cittadini e quindi hanno un rapporto costante e hanno lo strumento della polizia locale che aiuta. Però solo se mettiamo insieme a lavorare questi soggetti è importante. Si può, questo si può avere solo nelle emergenze. Ma è chiaro, no, dovrebbe avvenire giorno per giorno. Ecco, però dire, il prefetto di Milano ci dà una grossa mano, perché noi tutti i giovedì facciamo comitato e partecipiamo costantemente, vuol dire che insieme alle forze dell'ordine studiamo le misure più adatte. Sì, però ci vogliono anche degli strumenti. Eh no, ma è chiaro. Intanto io voglio anche ricordare il numero verde per gli ascoltatori: 800 24 00 24. Si parla di sicurezza nelle nostre città. Le voglio presentare, assessore, un GIP, un magistrato, Francesco Florit, che è stato già con noi in passato. Buongiorno dottor Florit, grazie per essere nuovamente con noi. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e all'assessore. Allora, giudice per le indagini preliminari di Udine, ma ha avuto anche una lunga carriera di giudice internazionale. So che ha lavorato anche in Kosovo per cercare di dare gli strumenti a un Kosovo in ricostruzione per ricostruire l'amministrazione della giustizia. Sì, e, anni. Esatto, lei si impose agli onori della cronaca quando di recente in un'ordinanza in pratica scrisse che molti stranieri vengono da noi a delinquere perché tanto sanno che da noi ci sono le maglie larghe e non succede granché il più delle volte per alcuni tipi di reati. Allora, ci faccia capire come è possibile accumulare 300 precedenti, o meglio magari per una singola persona 65, e non succede nulla. Beh, intanto vorrei dire, lei ha toccato tutti i punti fondamentali della questione, ricordando che in effetti in Italia c'è stato negli ultimi anni un crollo del percentuale di omicidi, ma al tempo stesso una crescita esponenziale della criminalità urbana, piccola criminalità urbana, che poi tanto piccola non è, perché è quella che dà il senso di insicurezza ai cittadini. C'è un altro aspetto che vorrei evidenziare: si dice 5 bosniache, in realtà poi 2 sono nate in Italia. Allora che cosa, probabilmente queste persone sono delle zingare bosniache, sì, probabilmente delle coracanè, cioè delle zingare musulmanizzate, è un gruppo ben individuato che opera nella zona di Milano, opera, c'è una presenza anche in Toscana e poi ovviamente c'è una distribuzione sul territorio. Ma evidentemente qui c'è anche un elemento fortemente culturale in queste, poi c'è la solita corredo di un elevato numero di precedenti, un elevato numero di figli. No? Sì, perché anzi lavoravano con i figli, lavoravano, quindi, si ecco, fa per dire. Quei figli lì sono veramente delle vittime, chiediamoci che cosa saranno fra 10 anni, perché hanno già la strada spianata. Questa è veramente una questione drammatica. Ma le voglio dire una cosa che è da un parametro abbastanza evidente. In una recentissima graduatoria pubblicata dall'Economist, quindi non una pubblicazione così estemporanea, città come Roma e Milano erano classificate su 50 città mondiali, Roma 40esima e Milano 27esima per il parametro della sicurezza personale. Cioè ovviamente no? stando in basso è peggio. Però le chiedo, dottor Florit, cioè com'è possibile tecnicamente, ce lo può spiegare, proprio strumenti, legge alla mano, accumulare 65 mano, precedenti? Evidentemente qui stiamo parlando di custodia cautelare, sì. Quindi di uno strumento interdittivo prima del processo, no? Sì. E ora c'è la legge, l'articolo 275 del codice di procedura penale, grazie anche ad una riforma dell'anno scorso, una modifica dell'anno scorso, la legge 117 del 2014, prevede che non si possa applicare la misura di custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva erogata non sarà superiore a 3 anni. Ma neanche per 60 diciamo. Precedenti, cioè i 60 precedenti non si cumulano come... Vede, i 60 precedenti si cumuleranno in termini di recidiva all'esito del processo, nel caso nella misura preliminare, quella che deve bloccare la persona perché non faccia nuovamente lo stesso reato, e diventa praticamente impossibile in questi casi di reati sostanzialmente non drammatici, il portafoglio allo straniero di turno, ma voglio dire è incredibile che in un paese vocato al turismo come l'Italia si prendono di mira ovviamente i turisti perché sono le vittime imbelli. Guardi, le dico un aneddoto: sono stato a trovare mio figlio che vive in Nuova Zelanda 2 mesi fa e un neozelandese mi dice: ah, sono stato a Roma, bellissima città, sul 263 tra Termini e Largo di Torre Argentina sono stato derubato, no? Il 263 è un numero mitico del trasporto urbano romano. Anch'io ero stato derubato sullo stesso autobus qualche anno fa. L'unica consolazione, gli ho detto, mal comune, mezzo gaudio, si cacciano anche gli italiani. Non so. Lei capisce che sono cose veramente non è bello da. Ma quindi lei conferma che quella frase che disse, cioè molti stranieri vengono qui perché tanto sanno che in Italia le maglie sono... Sì, questi non sono stranieri, erano straniere, queste donne sono stanziali italiane, hanno un 10% di patrimonio culturale italiano, il resto è patrimonio culturale dell'etnia di appartenenza, insomma, sì. Bisogna essere obiettivi e chiari. Per quanto riguarda quella frase che avevo usato, purtroppo è vera e ci sono state conferme ulteriori. Conferme ulteriori. Assessore Granelli, qui la questione è: a me è colpito quando il giudice decide non possono andare in città come Napoli, Bologna, Firenze, Genova, certo. Torino, Brescia, Venezia, Catania e Roma, oltre che ovviamente a Milano. Se vengono riprese, che succede? Perché... Io intanto dico che proprio per quella cosa che diceva il giudice, noi abbiamo chiesto nell'articolo 9, quella proposta di disegno di legge che spero che adesso il governo approvi, proprio il passaggio, l'inasprimento delle pene, proprio per il 624 bis, che è uno degli articoli relativi a questi furti, a queste situazioni, il passaggio della pena, la pena minima che è un anno, portarla a 3 anni, che è proprio quello che permetterebbe, quanto diceva prima il giudice, e poi la, da 3 a 4 anni in un altro caso. Cioè noi abbiamo previsto proprio un articolo che va a modificare il codice penale e aumenta le pene minime in modo da poter permettere al giudice di mettere anche delle misure di custodia cautelare. Però assessore, campa a cavallo, anche... cioè per cambiare il codice penale ci vuole una legge parlamentare. No, guardi, perché dobbiamo dire che se c'è la volontà politica basta. Appunto. Il bisogno di legge, allora ci può essere un decreto, questa è una proposta, può essere usato sia con bisogno di legge o come decreto, quindi può incominciare a fare il decreto, intanto entra subito in vigore e poi nei 3 mesi che è in vigore, nei 90 giorni ci può essere dibattito parlamentare. Allora, se tutti siamo d'accordo e vogliamo aiutare i comuni che poi tutti i giorni in strada hanno il contratto a queste cose, il Parlamento lo può approvare. Mm-hmm. E poi direi anche ai giudici su questo di lavorare. Noi mettiamo a disposizione del Tribunale 80 agenti di polizia locale per fare le indagini, e noi oltre a fare l'arresto abbiamo un contatto diretto con i giudici del Tribunale di Milano e cerchiamo anche di ad esempio andare a contrastare l'utilizzo dei minori. Abbiamo fatto un accordo col tribunale per i minori e il tribunale di Milano, andando a contestare non solo la misura del comunque che porta al togliere la potestà genitoriale, anche all'arresto dei genitori che utilizzano i minori per commettere reati, e abbiamo arrestato 12 genitori da questo punto di vista. E poi mettiamo a disposizione anche dei giudici, noi anche per il contrasto, qui si usava la parola zingaro eccetera, dico, per me ogni persona che delinque è una persona che delinque, indipendentemente che sia italiana, straniera. Ma questo è chiaro, è percentualmente. Noi abbiamo fatto una politica in Milano per la prima volta di chiusura dei campi, proprio per evitare che ci siano delle zone franche da questo punto di vista. Ne abbiamo chiusi 2, stiamo andando avanti da questo punto di vista, proprio per impedire che ci siano zone franche. Chiediamo anche giudici poi di aiutarci su questo. Vediamo ai giudici, perché chiediamo al dottor, tra l'altro forse si dice Florit, dottor, mi corregga sulla pronuncia, Florit o Florit? Florit, perfetto. No, vabbè, ma è importante. Allora, dottor Florit, c'è una mancata, spesso sa, quando si leggono queste notizie, l'uomo della strada dà la colpa al giudice, al magistrato, dice, ma come? Ma come si fa a far lasciare andare in giro una persona che ha 60 precedenti? L'istinto, magari di non conoscere i meccanismi della legge, è quello, di pensare che il magistrato... C'è allora una mancata collaborazione a volte dei giudici? Ma guardi, io ovviamente non mi posso permettere di esprimermi nel caso concreto, perché commetterei non solo una scorrettezza ma anche una violazione disciplinare, e poi non avrebbe senso parlare del caso concreto perché non lo conosco in profondità. Certo è che a volte ci sono degli atteggiamenti culturali anche di tolleranza, questi, devo dire la verità, per quanto riguarda la mia esperienza, stanno progressivamente evaporando. C'è il dato oggettivo di una interpretazione della legge che rende difficile al giudice l'applicazione della misura. Per esempio, se si aumentasse a 3 anni, come ci ha detto Granelli, nell'ipotesi di un decreto, quello per cui fa scattare l'arresto, questa potrebbe essere una soluzione, aumentando. Insomma, ci sono soluzioni tecniche sicuramente percorribili. Quello che voglio dire è che il tema della misura delle misure cautelari in generale è uno dei temi più dibattuti in Italia, e ovviamente è come un pendolo che va una volta in una direzione e poi nell'ondata sociale può arrivare dalla parte opposta, cioè all'estremo opposto. Certamente diventa difficile applicare una misura cautelare carceraria, anche perché, parliamoci chiaro, l'Italia non ha di per sé una percentuale di detenuti superiore alla media europea, anzi ce l'ha inferiore, ma ha un problema di sovraffollamento delle carceri. 2 anni fa o 3 anni fa il procuratore generale di Milano aveva inviato una lettera circolare ai sostituti invitandoli a considerare veramente la custodia cautelare come estrema razio, perché le carceri erano c'è anche questo da tenere in considerazione. Allora facciamo così, io mi devo fermare un attimo per la pubblicità, 3 minuti. Ringrazio il dottor Francesco Floritta, che è stato con noi giudice per le indagini preliminari di Udine, insieme all'assessore Granelli sicurezza a Milano, che rimane. Ci raggiungerà tra poco il sindaco di Firenze Dario Nardella, Partito Democratico. State con noi. Allora, la sicurezza nelle città, insieme all'assessore di Milano Marco Granelli. Saluto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, sentiamo 2 ascoltatori, poi sono da lei. Annalisa ci chiama da Milano. Buongiorno Annalisa. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Buongiorno. Dunque, io vi chiamo perché ho già avuto a che fare con l'assessore Granelli. Che senso? Abito in zona 4 a Milano. È una zona che l'assessore credo conosca molto bene, perché è una zona che ha molti problemi, ha ormai a tutti i livelli di delinquenza, sociali, di tutti, e il Comune di Milano ci ha messo un centro di emergenza sociale chiamato CES, in realtà è un campo Rom che noi manteniamo. L'assessore non è d'accordo, abbiamo già discusso molto. E vabbè, venga al punto, al di là della diatriba tra lei e l'assessore, cosa vuole dire? No, il punto è che la città di Milano non è come la descrive l'assessore Granelli. Cioè, sentito così sembra una città virtuosa, sembra che il comune stia facendo molto. In realtà forse lui non va per le strade, cioè lui non ha la percezione di quella che è Milano oggi. Quindi lei dice lui in realtà non è così, non è una città sicura. No, vabbè. Non è una città sicura, ma basta girare per le strade per capirlo. Basta ascoltare la gente, ma loro ormai la gente non l'ascoltano più. Va bene, Annalisa, tra poco allora le risponderà l'assessore, prima però vorrò andare dal sindaco Nardella. Teniamola lì come riflessione per l'assessore Granelli. Claudio da Milano, buongiorno Claudio. Sì, buongiorno. Niente, volevo solo raccontare la mia esperienza. Io ho avuto un furto in casa, abbiamo avuto un furto in casa a novembre, il giorno di Sant'Ambrogio. Siamo andati a fare la denuncia alla polizia, e passava il commissario e mi dice sì, fate pure la denuncia per l'assicurazione, anche se, vabbè, mi ha lasciato perdere, infatti sono ladri anche loro più o meno. Comunque mi ha detto guardi, 15 giorni fa, quindi metà ottobre, ci hanno chiamati perché sentivano dei rumori, abbiamo preso sul fatto 2 rumeni portati in galera a San Vittore. Sì. 2 giorni dopo esco dal commissariato, uno dei 2 era fuori, mi ha fatto il gesto dell'ombrello. Quindi liberi, detto, dopo 2 giorni. Liberi, tranquilli. Ho detto io gli avrei dato un cazzotto, però se solo lo fioro mi denuncia per maltrattamento, esatto, io mi prendo 3 anni. Per capisco. Me il posto c'è. No, adesso non credo che per lei il posto ci sia e per gli altri no. Però la problematica che lei pone certamente c'è, Claudio. Però allora l'assessore Granelli prima diceva cooperazione maggiore tra forze di sicurezza e sindaci. Credo, sindaco Nardella, che anche a Firenze voi vogliate fare è facciato un'iniziativa di questo genere. Di che tipo? Sì, buongiorno. In effetti puntiamo sul coordinamento con le forze dell'ordine, perché spesso si confondono i livelli di sicurezza urbana e pubblica sicurezza. Ora, sindaco e comune sono competenti per la sicurezza urbana, cioè tutto quello di cui si occupano i vigili urbani, la polizia municipale, a cominciare dal degrado, il decoro, piccoli crimini, mentre la pubblica sicurezza, come sappiamo bene, spetta allo Stato attraverso prefettura e forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Allora, visto che le città sono strette dalla morsa di questi 2 aspetti, o si tengono collegate attraverso una cooperazione fortissima, oppure il lavoro dei sindaci diventa un lavoro spesso improduttivo, come un mulino a vento. Allora, nel caso di Firenze, soprattutto in questo periodo, nel periodo primaverile estivo, c'è una pressione fortissima nel centro storico, determinata sia da una grande presenza di turisti che appunto dalla presenza di extracomunitari, venditori abusivi, che poi finiscono anche per cadere in crimini, perché la vendita di merce contraffatta è un reato penale. Allora, con le forze dell'ordine abbiamo distribuito le diverse piazze. Ogni forza dell'ordine si assume il carico di controllare una piazza in particolare e tutti i dintorni, ad esempio Piazza del Duomo, affidata alla polizia, tutta piazza Signoria, Uffizi e dintorni ai carabinieri, in modo da distribuire il carico di lavoro in un coordinamento più forte. Per ora qualche risultato, devo dire, anche riconosciuto dai media, dalla stampa, dai cittadini, si vede. È chiaro che però bisogna dare continuità e metodo, perché senza la collaborazione con le forze dell'ordine, il Ministero degli Interni, guardi, Non si va da nessuna parte. Si riesce a mettere qualche pezza. Però, ad esempio, mi ha colpito la notizia di due giorni fa di un venditore abusivo che ha aggredito un vigile urbano a Firenze, quando è stato il momento dell'arresto, immagino anche del fermo, del sequestro della merce. Che è successo due giorni dopo, dopo averlo colpito con una spranga, era libero. È così, sindaco? Sì, è successo a Ponte Vecchio, sì, questo appunto marocchino con una spranga ha minacciato e ha tentato l'aggressione di un agente di polizia municipale. E questo vorrei dire due cose su questi aspetti, anche a proposito del secondo radioascoltatore che ha parlato. È vero che c'è un sistema diciamo legislativo che anche a causa dell'emergenza carceri diciamo non consente di applicare in modo, secondo me, a un mio punto di vista, non consente di applicare in modo incisivo le misure cautelari, no? Certo. Però è anche vero che gli agenti della polizia, delle forze di polizia, non possono, con tutto il rispetto, usare come alibi questo, altrimenti, voglio dire, siamo tutti a casa, nessuno fa il proprio lavoro. Intanto, no, è chiaro, se no sarebbe da dire lasciateli stare, fermateli, perché tanto sono liberi. Esatto, io dico ai miei vigili, ma lo dico anche ai poliziotti, ai carabinieri, conoscono ormai, sono molto esigente, anche se non è mia competenza sostituirmi al prefetto, però io dico sempre, intanto ciascuno faccia il proprio dovere, poi vediamo dove sono gli errori. Seconda considerazione. Io penso che vi sia una questione di filiera, cioè dal sistema delle leggi a come vengono applicate dal punto di vista giudiziario al contrasto che si fa poi sul territorio. Questa filiera deve funzionare dall'inizio alla fine. Allora, probabilmente vale la pena vedere se a livello di leggi si possono trovare delle forme di contrasto con misure cautelari, per non vedere sempre queste scene di piccoli criminali che fanno infatti l'assessore Granelli prima ci diceva che c'è allo studio dell'ANCI anche questa proposta per fare un decreto, proporre un decreto al governo per aumentare le misure di custodia cautelare a tre anni, perché quello è il limite oltre il quale scatta l'arresto, come ci spiegava prima il giudice Florit. Però, assessore, un altro aspetto, sì, che mi consente, quando viene trovato un extracomunitario che magari non ha documenti di identità, bisogna fargli il foglio di via. Perché? Il foglio di via che può essere disposto dalle questure. Che poi però va applicato, perché sennò ha ragione, lo stracciano. Di, non c'è dubbio, va applicato. Però se questo stesso signore dovesse essere poi colto nuovamente in flagranza, allora ha un quadro diciamo giudiziario penale molto più serio. Sì. Diciamo, quindi una serie di contrasti a legislazione vigente già si possono fare. Io, assessore Granelli, vuole rispondere ad Annalisa da Milano, che diceva, insomma, sì, accusava, certo, di uno scollamento dalla realtà della cittadinanza. Guardi, in zona 4 ci sono andato tante volte. Noi in zona 4 abbiamo chiuso 5 campi rom abusivi, alcuni dei quali avevano 150 persone, la periferia del sud di Milano, ed esistevano da 20 anni, avevano fatto anche grandi inquinamenti, e ora quell'area in parte sequestrata dalla magistratura per bonifica e in parte è stata riqualificata, affidata dai contadini, quindi per tornare a parco. Quindi abbiamo certo realizzato il centro di emergenza sociale, che è uno strumento, che è un servizio dove è gestito H24, cioè, da operatori e con la presenza H24 della polizia locale. Ma però l'accusa era più, persone, al di là del CES, questa, no, l'accusa era proprio, no, dire non c'è, no, bisogna non parlare con chiarezza. Sì, però l'accusa della cittadina era non c'è, in realtà Milano è molto più insicura di quello che si vuole far credere. Io non lo so, guardi, chiaramente sono insieme con i cittadini si vede la città. Noi abbiamo aumentato il numero degli arresti, sia noi che la Polizia di Stato e i Carabinieri, l'ha dichiarato appunto il questore, il prefetto, noi come amministratori, e anche il numero dei furti e delle rapine non ha avuto una impennata grande, ma ha avuto negli anni scorsi una lieve salita, adesso è costante, mentre il numero dei reati diminuisce. Quindi insomma, cioè, noi chiaramente non dico che siamo al top, però siamo, alcune misure che abbiamo messo in atto ci danno una mano. Sì. Poi anche rispetto al secondo ascoltatore, noi quando abbiamo delle zone, dei quartieri dove ci arrivano segnalazioni di aumento di furti eccetera, facciamo questi incontri interforze a cui partecipo anch'io, cioè con il responsabile del commissariato locale, ma di quel territorio, il comando dei vigili di quel territorio, e andiamo a realizzare per un certo periodo azioni di contrasto, mettendo a disposizione ad esempio il sistema di videosorveglianza. Sì. Noi abbiamo quasi 2000 telecamere di videosorveglianza in città che abbiamo messo a disposizione, nel senso che abbiamo noi collegato la centrale dei carabinieri e della polizia eccetera, che lo utilizzano in temporale. In questo modo si fanno azioni mirate che vanno proprio a colpire e non lasciare cadere. È chiaro che poi la percezione della sicurezza è una questione molto soggettiva. Io posso immaginare di uno che abbia subito un furto in casa, un furto, un'aggressione anche fisica, o anche il furto di un portafoglio in metropolitana, da quel momento, voglio dire, la sua sensazione di percezione di sicurezza si abbassa a una soglia quasi al limite dello zero, nonostante uno possa dire ci sono 1000 telecamere, ci sono. Quindi capisco, poi i punti di vista sono sempre anche molto soggettivi. Io però qui mi devo fermare, ringraziando il sindaco di Firenze Dario Nardella e ringraziando l'assessore alla sicurezza di Milano Marco Granelli, insieme ovviamente al giudice Francesco Florit che è stato con noi prima. È il momento di dare la linea al traffico. Allora, Davide da Monza e Brianza. Ma cosa vuol dire Monza e Brianza? Da dove ci chiama Davide? Da Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Bravo, io da Sestese lo dico sempre così, con questo tono, da provincia di Monza e Brianza. Dica, volevo dire che Florit ha ragione in pieno, non solo gli stranieri, ma anche gli italiani sanno che in Italia ci sono le maglie larghe. Perché per esempio nel mio paese 3 o 4 giorni fa è stato coltellato da un nordafricano, non era né ubriaco né drogato, un pensionato di 64 anni che stava chiudendo i parchi. In cambio voleva dei soldi questo straniero, è stato coltellato, però sui giornali c'era scritto che è stato arrestato per tentata rapina, non perché è tentato omicidio. Effettivamente è la distorsione che c'è. Beh, si sarà coltellato, insomma, adesso non lo so, poi ci sarà se c'è più tentato omicidio, però poi non sappiamo. Ma lei cosa vuole dire? Insomma, che quindi ha ragione. Che Florita ha ragione in pieno. Ha ragione in pieno. In Italia molti vengono perché ci sono le maglie larghe e molti italiani lo sanno e delinquono. Ma voglio dire, poi lo dice lui che è un magistrato, cioè uno che è un GIP, è uno che le vede le cose quando poi gli portano le persone che vengono arrestate, no? Deve fare i provvedimenti. Quindi se è arrivato a scriverlo in un provvedimento, adesso magari recupero testuale la frase che ha scritto in questo provvedimento, evidentemente ha colto che la situazione è quella. Ma intanto, prima che io recuperi la frase, eccola qua, dov'è? Molti stranieri sono convinti che qui da noi, se mai ti beccano, fai un patteggiamento e ti rimettono in libertà. Sanno che la giustizia non è efficiente, il sistema è tale che dopo poco si è rimessi in libertà e si può ricominciare come prima. Il dottor Florit. Vabbè, dai, è il momento della segreteria telefonica. Ieri qualcuno mi ha scritto, è uno dei motivi per cui mi sveglio la mattina, la segreteria telefonica di 24 mattino. Evviva! Sì, Tras è un codardo, costringe poverino il grillo popolo greco a votare. Che voti sì o no, lui ne esce bello e pulito senza colpe. Mi spieghi cosa vuol dire i greci vanno in pensione a 55 anni, tutto scandalizzato? Ma se come me entro nel mondo del lavoro a 14 anni e mezzo, i miei anni di lavoro a 55 anni saranno 40 lo stesso o no? Ma svegliati un po', fatti ricoverare, va. Dico, adesso basta con gli insulti. Adesso dico io, Alino Milan è bello, è bravo e ha gli occhi azzurri. Hanno fermato per la seconda volta mio cognato per un controllo di documenti sul traghetto per la Sardegna. Alla sua domanda, scusate, ma lo faccio da delinquente? La risposta è stata, no, lei ha i baffi. È con questo criterio che fanno controlli qui da noi e stiamo freschi. Milan, sono Tsipras. Se vuoi presto potrò venire alla prima trattativa con Squinzi per tuo rinnovo contrattuale. Vabbè, non lo so se affido il mio rinnovo contrattuale a questo alias Tsipras, non lo so, alter Tsipras. Attaccare! Eccolo là. Allora, noi siamo in diretta fino alle 9.30, non è che ce ne andiamo via, come sapete questa settimana e la prossima fino alle 9.30, dopo il giornale radio delle 9 parleremo di che cosa? Di questo reddito di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia, che però forse non si può chiamare così, sennò qualcuno si arrabbia a livello del PD nazionale. Comunque parleremo di questo tra poco dopo le 9, ricordate la segreteria telefonica è 02-4652-4492, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Mancano ormai pochi giorni al referendum sulle riforme in Grecia e lo spettacolo sotto gli occhi del mondo è a dir poco demoralizzante. Non solo per lacrimonia e risentimento che i leader europei e quelli greci non esitano ad esprimere l'uno contro l'altro in ogni occasione possibile, ma soprattutto per il clima da circo, se non da stadio, che sembra circondare uno degli eventi più drammatici della storia recente della Grecia e traumatici per la stessa Europa. Fa un certo effetto sentire e vedere molti politici italiani quasi festeggiare il voto di domenica, anticipare trasferte ad Atene con striscioni e tamburi, proprio mentre migliaia di pensionati greci non riescono a ritirare la pensione perché le banche sono chiuse e gli uffici pubblici mancano persino i soldi per gli stipendi. Controllo dei capitali, banche serrate, bancomat limitati con 60 euro al giorno per famiglie per fare la benzina e per comprare da mangiare. La Grecia è al collasso. La maggioranza dei greci non sembra avere alcuna intenzione di tornare alla dracma, ma questo poco importa. Nell'era del populismo dilagante, ogni occasione è buona per fare politica sulla pelle degli altri. Ora staremo a vedere domenica cosa succederà. Per fortuna, a dirlo, saranno i greci. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sette minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, ormai lo sapete, questa è la prossima settimana, andremo in onda fino alle 9.30. Allora, qualcuno un po' maliziosamente fa notare che non bisogna chiamarlo reddito di cittadinanza, se no la governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, un po' si arrabbia. Perché il reddito di cittadinanza, cioè quella proposta a livello nazionale di dare circa 780 euro a tutti coloro che non guadagnano questa cifra, 780 euro al mese, è una proposta del Movimento 5 Stelle. Allora facciamo così, non chiamiamolo, se volete, reddito di cittadinanza, chiamiamolo come la regione Friuli Venezia Giulia lo ha definito, cioè una misura attiva per l'inclusione sociale. Sta di fatto che con il voto di Partito Democratico, SEL e anche del Movimento 5 Stelle, la regione Friuli Venezia Giulia si dota di questo esperimento che permetterà di dare 550 euro al mese per i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 6.000 euro, 550 euro al mese a una platea di persone che adesso vedremo. È la prima regione che fa una operazione del genere e voglio salutare Diego Moretti, che è il capogruppo del PD alla regione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Moretti e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Così come voglio salutare Giuliano Cazzola, spesso nostro ospite su questi temi. Cazzola, buongiorno e ben ritrovato. Grazie anche a lei e ascoltatori. Allora Moretti, intanto cosa facciamo? Dobbiamo chiamare reddito di cittadinanza? Non dobbiamo chiamarlo reddito di cittadinanza? Dobbiamo far arrabbiare la Serracchiani? No. Vabbè, che cos'è questa misura della regione Friuli Venezia Giulia? Ma guardi, noi l'abbiamo chiamata esattamente, se le devo dare la dizione esatta, sì, della legge, misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito. Okay. È effettivamente una misura di sostegno al reddito. Sostegno al reddito. Sperimentale, mi dica... sì. È importante questa sottolineatura a nostro modo di vedere. e vuole dare, come ha detto lei, un sostegno, un aiuto. Ce lo spieghi un attimo, detto che diamo il numero anche per gli ascoltatori, 800 24 0024. Io ho capito che la può ricevere chi da 2 anni risiede in Friuli Venezia Giulia, almeno, quanto può ricevere e a chi si rivolge questo sostegno? Ma guardi, si tratta di un intervento monetario di integrazione al reddito, erogato però nell'ambito di un percorso concordato, e quindi attraverso la sottoscrizione di un patto, sì, che riguarda il richiedente, che può essere nucleo, noi parliamo di nucleo familiare, sì, il cui anche monopersonali, quindi, in cui almeno un componente sia residente in regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi, sì, con un ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente, inferiore o uguale ai 6.000 euro annui. Perfetto. Chi si trova in questa situazione può, sì, avere 550 euro. La misura massima. Misura massima 500. Sì, certo. Misura massima. Cioè, fino a un massimo di 550 euro al mese. Quanto costerà? Ci sarà una copertura, una previsione? Sì, quanto, sì, costerà tutto ciò alle casse della regione? Guardi, per questo primo anno abbiamo stanziato 10 milioni, sì, di euro. Tenga presente però che va tenuto presente che la misura, con l'entrata in vigore dei regolamenti, non sarà operativa prima di ottobre. Sì. A regime, quindi col prossimo anno, contiamo di stanziare sui 30 milioni di euro. 30 milioni. Questi sono soldi ovviamente nei bilanci della regione? Sì. Soldi nei bilanci della regione, iniziando la riorganizzazione delle singole misure di sostegno al reddito o di inclusione sociale che già oggi esistono. E che quindi per dare un minimo di razionalizzazione, sì, alle misure. Beh. Intanto, no, ma questo sì, intanto Moretti non sarà reddito di cittadinanza, però avete avuto una convergenza anche di voti col Movimento 5 Stelle, quindi questo, sì, come lo, sì, legge? Sì. Ma siamo entrati nel merito delle questioni, non si tratta di una misura ideologica come purtroppo il centrodestra, in particolare Forza Italia, ci ha accusato di aver votato. Però appunto non è un reddito di cittadinanza proprio perché include un patto. Il patto è tra il richiedente, sì, colui che ha bisogno, e l'ente pubblico. Ma guarda che però anche adesso io, anche il reddito di cittadinanza ce ne siamo occupati, prevede, sì, un patto, cioè chi nella proposta del Movimento 5 Stelle, chi vuole, chi usufruisce di questo reddito di cittadinanza di 780 euro deve impegnarsi a cercare lavoro, deve alla terza occasione in cui gli si trova un posto di lavoro e rifiuta, lo perde, che è un po' le cose che ho sentito anche riguardo a questo patto. Sì, da noi c'è per la prima volta la stretta correlazione tra servizio sociale del comune, sì, prevista, e quella che è l'Agenzia Regionale del Lavoro, che dal 1 luglio ha inglobato le competenze che erano dei centri per l'impiego delle province, e che a nostro modo di vedere rappresenta comunque una novità importante. Noi avevamo già con il governo Illy, sì, nel 2007, il vero e proprio reddito di cittadinanza, sì, che non solo arrivava a importi molto alti, ben più alti di questi, e che, le dico perché l'avevo vissuta personalmente da amministratore comunale a suo tempo, effettivamente quella era meramente una misura, sì, assistenziale, perché non incentivava, diciamo, la persona e nemmeno l'ente pubblico a cercare un posto di lavoro, esatto, a darsi modo, da fare. No, questo oggi non lo è. Ma guardi, però Moretti, le faccio ascoltare. C'ho colui che è da liberale, Giuliano Cazzola, pensa che il reddito di cittadinanza tu cure, e non so se questa misura invece del Friuli la voglia inquadrare così, sia un qualcosa appunto di meramente assistenziale. Lei, Cazzola, ha letto, si è informato, ha capito se c'è davvero una differenza e se lo possiamo chiamare questo un reddito di cittadinanza in salsa friulana oppure no? Ma guardi, allora, nomina sunt consequentia rerum, no? Il fatto che si chiami in maniera diversa significa che comunque lo spirito, l'intenzione è diversa. Cioè questa misura, che io apprezzo, almeno per quello che ho letto apprezzo, ha un carattere, diciamo, di lotta alla povertà, è un carattere inclusivo e si rivolge, diciamo, a situazioni emarginate, no? Il reddito di cittadinanza, almeno nella dimensione grillina, pur con alcune similitudini, no? Come lei ha ricordato adesso, insomma, il patto per cercare lavoro, il patto per partecipare a corsi di formazione, diciamo, rischia di essere più costruito sull'occupazione, sulla mancanza di occupazione, quindi rischia di diventare un sostitutivo dell'occupazione, insomma, uno non lavora, vive a spese dello Stato. Anche se poi deve cercare lavoro, deve attivarsi, a parte che però questo è un aspetto fondamentale, anche se deve... sì, però solo rifiutare 3 offerte di lavoro mi pare che sia veramente eccessivo, no? Ma vede, sa qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che in Friuli ci sono i friulani, quindi sono assolutamente in grado di gestire un patto, hanno dei servizi che funzionano. Una misura di reddito di cittadinanza su scala nazionale. Ah, è questo. Beh, questo non avevo pensato. Cioè, lei dice, una misura di cittadinanza su scala nazionale è ingestibile. Laddove invece c'è una regione dove funzionano queste cose. Cioè, capisce, l'assistenzialismo non è, diciamo, nelle cose quando nascono, lo diventa nella trasformazione, nel senso che il paese, l'Italia, come sul piano nazionale, per adesso, non è in condizione di assistere gli inoccupati, stenta ad assistere i disoccupati, pensi alla questione della garanzia giovani, no? Sì. Al risultato della garanzia giovani, che anche questo era un elemento inclusivo nel mercato del lavoro. La flex security funziona in Danimarca perché ci sono i danesi. Sì. Questa è l'unica spiegazione che mi sono fatto. È bella la lettura antropologica di Cazzola. Funziona perché ci sono i friulani. Lei faccia caso, dov'è che è rimasto in Italia il problema degli LSU? Sì, lavoratori socialmente utili. È stato dappertutto. Sì. È rimasto da decenni a Napoli, insoluto a Napoli. Beh, non solo forse a Napoli, sono anche città siciliane. Città siciliane, di questo paese. Io ho partecipato nella commissione Carniti sulla povertà, sono stato componente di quella commissione, facemmo un reddito minimo di 500.000 lire, no? Che cominciò con alcune sperimentazioni in alcune città, poi dopo si estese tutto il territorio nazionale. In Sicilia finì tutto in magistratura e saltò tutta l'operazione. Quindi il problema è dove si fa. In Friuli funziona perché sono friulani. Sono friulani, certo. Certo, può funzionare anche in Lombardia, può funzionare nella mia regione, certo. Però insomma, su scala nazionale le strutture di politiche attive, secondo me, oggi non sono in grado di gestire una cosa così importante, una cosa così massiva. Beh, non lo so, adesso lo chiederò a Moretti, che è friulano e quindi ha gioco facile a rispondere. Però fatemi sentire anche qualche ascoltatore. Fabio da Milano ci chiama. Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei. Che pensa? Buongiorno ai suoi interlocutori. Io penso che sia veramente sbagliato dare dei quattrini a qualcuno che non lavora. Non lavora, questa cosa la dico perché ho un padre che ha versato contributi per 40 anni e prende 780 euro di pensione al mese. Lo dico perché ci sono dei ragazzi che si fanno veramente un mazzo così a lavorare nei fast food usciti magari dall'università e gli danno 500 euro al mese. Ecco, dare dei quattrini a qualcuno soltanto perché non fa nulla è sbagliato, è disincentivare quelli veramente che lavorano. Quindi lei dice il posto di lavoro c'è, basta trovarselo, è inutile. Ma se lo inventino, io lavoro da 32 anni per conto mio, io ho 48 anni, lavoro da 32 anni per conto mio, io faccio l'artigiano, mi sveglio tutte le mattine, rischio del mio, se sono bravo guadagno, se non sono bravo non guadagno e nessuno mi deve dare nulla. Insomma, lei ha proprio una lettura molto, molto critica nei confronti di qualsiasi forma di assistenzialismo, anche se viene proposta come una lotta di contrasto, una lotta alla povertà. Ha sentito Moretti intanto? Risponda sia Fabio e sia Cazzola. Beh, la lettura di Cazzola è antropologica, funziona da voi perché siete friulani, ma a livello nazionale ci siamo capiti, non può funzionare. Beh, alla lettura del professor Cazzola dico che effettivamente siamo anche orgogliosi di avere un'amministrazione pubblica comunque efficiente e anche delle persone che rispettano quasi in stile asburgico. Tenere presente che noi abbiamo una parte del nostro territorio regionale che è stato sotto l'impero austro-ungarico per mi piace questo taglio antropologico, però insomma vabbè usciamo da Cazzola, va bene, quindi è così e sono asburgici, sono in parte asburgici, quindi e quindi che dobbiamo fare, va bene così, questo l'abbiamo derubricato appunto a vostro merito. Che dice invece l'ascoltatore artigiano che dice: io mi sveglio tutti i giorni, non voglio che nessuno mi aiuti, rischio del mio tutti i santi giorni. Moretti. L'osservazione del signor Fabio da Milano ce la siamo fatta in parte anche noi, così consci del rischio che la misura sia esclusivamente assistenziale. E quindi ce la siamo anche posto questo problema. Il nostro tipo di intervento però, che comunque è sperimentale, perché lo prevediamo inizialmente per 3 anni, con un monitoraggio semestrale per capire un po' quelle che sono anche e se le cifre mi dicono tanto, 30 milioni a regime vuol dire 30-30 più 10 quest'anno, sono 70 milioni di totale di investimento. Però appunto il monitoraggio servirà anche a capire cosa aggiustare della norma. Tenga poi presente che l'intervento di integrazione del reddito è concesso per un periodo di 12 mesi con un'interruzione non inferiore a 2 mesi e può essere concesso di nuovo, eventualmente anche rivedendo il patto richiedente ente pubblico, per ulteriori 12 mesi. Anche in questo sì, però l'aspetto fondamentale lì ce lo siamo posti questo problema. Cazzola ha ragione, il grido di dolore dell'artigiano di Milano lei lo condivide? Ma guardi, io posso condividerlo in via di principio ma non in via di fatto, perché comunque che ci siano delle situazioni diciamo incolpevoli di povertà, c'è chi può aver perso il posto di lavoro e quando lo ritrova il giorno dopo, no? Ci sono in tutte le società, anche in società più, diciamo, più sviluppate, più ricche delle nostre, situazioni di emarginazione che meritano di essere recuperate. La novità proprio del rispetto alla proposta dei grillini, poi lei ha ragione, se dobbiamo sempre guardare alla funzione degli istituti piuttosto che al loro nome, no? della soluzione friulana sta proprio nel fatto di contrastare la povertà, di contrastare situazioni di povertà. Anche il reddito di cittadinanza immagino che nasce proprio così, cioè di contrastare. Teniamo conto che il voto contrario delle destre deriva dal fatto che questo è riservato anche agli stranieri, no? Credo che sia giusto che sia riservato anche agli stranieri. E credo anche in Friuli sia così, cioè non fate immagine. Infatti è giusto che ci siano anche situazioni di interesse in direzione degli stranieri che risiedono nella regione da due anni. Sarebbe discriminatorio il contrario. Sarebbe discriminatorio il contrario, soprattutto delle regole europee non consentono di discriminare cittadini comunitari. Io vorrei sentire anche Francesco, ci chiama da Brescia. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ospiti. Ma io sinceramente sono un po' allibito perché stamattina scopro che l'Italia è una confederazione di regioni. Cioè, il Friuli è una regione statuto speciale. Sì, certo. E in quanto regione statuto speciale ha sicuramente delle agevolazioni rispetto a tante altre regioni, per esempio Lombardia, ma anche il Piemonte o cosa. E da con questa norma a cittadini, residenti, italiani e stranieri, soldi per possiamo assistere, va bene, per le difficoltà e tutto quanto. Quindi lei dice, io che sono in Lombardia? No, esatto, cioè io contribuisco più del Friuli, perché Friuli Trentino, Valle d'Aosta... Come PIL. Ma come tassazioni, le agevolazioni che ci sono in queste regioni a costruire una casa. Insomma, si sente un po' discriminato, Francesco. Assolutamente. Domani mattina stranieri o italiani andranno in Friuli a chiedere residenza. Io ho difficoltà, vado lì. Però devono essere da 2 anni, poi magari è sperimentale, tra 2 anni non c'è più questo progetto, e quindi non lo so. Però lei dice, da lombardo, da una regione che contribuisce al PIL più del Friuli Venezia Giulia, sente questa discriminazione, perché il Friuli Venezia Giulia, essendo a statuto speciale, può permettersi di fare questa cosa. E va bene, raccolgo anche quest'altro grido di dolore. Luigi da Palermo, credo che ci abbia chiamato sugli LSU, ovviamente cazzola, ovviamente. Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi. Gli LSU nascono come uno strumento straordinario e poi diventa un fenomeno strutturale, perché sono, certo, un fenomeno clientelare. Non si vanno a registrare degli strumenti di intermediazione che vedono domande e offerte che si incontrano nel mondo del lavoro, perché sono inefficienti, sì, non si risolve niente. Quello ci ha detto però Cazzola, che questi strumenti di intermediazione del lavoro funzionano in Friuli perché sono friulani, e non voglio dire dove, Cazzola, lo dica lei, perché sono, lo dica lei. Cazzola, non è colpa dei cittadini, insomma, però io sono convinto che ci sia una via anche antropologica allo sviluppo e alla crescita, insomma, che poi ovviamente deriva dalla storia, deriva dalle istituzioni, per esempio, cosa vuole che le dica? Io vivo in una regione dove in buona sostanza la società civile potrebbe fare a meno della politica. Ci sono regioni in Italia dove la politica è il motore di tutte le cose. Io non me la prendo con i cittadini. Ma la prendo però con la situazione, insomma. È la cultura, la storia e l'antropologia che porta anche a delle situazioni. Ma questo ce l'ha spiegato molto chiaramente come sua posizione. Mi fermo qui, ringraziando Giuliano Cazzola e ringraziando Diego Moretti, capogruppo del PD alla Regione Friuli Venezia Giulia. Ci fermiamo anche per questa settimana alla 113esima decisiva per l'abolizione delle province, e alla 114esima all'alba alle 6.30 noi saremo qui con 24 Mattino, con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Pescabè in regia, o come oggi Carmelo Lauricella. Chi lo sa, mistero. Buon weekend. 24 Mattino.